fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento. Io sono in compagnia di tre, posso dire? Membri esterni. Componenti. Membri esterni, sì. Allora, chiediamo poi i loro nomi, come vi chiamate? Allora, siamo... Alessandro. Mattia. Mikol. E Sandro, giusto? Ho capito bene. Alessandro. Ma lui si è chiamato Sandro, però. Internet. Non è che mi correggi così, eh? Diminutivo per gli amici. Vediamo se si ricordano il mio nome. Io come per mi chiamo? Per gli amici da casa, soprattutto. Mi sembra Valentina, ragazzi. Qui con noi abbiamo Vale. Vale del convento. Visto come si ricordano. Vabbè. Allora. Come non ricordarsi? Ma cosa di Vale? Ci fate voi qui? Voglio sapere cosa festeggiate. Allora, festeggiamo l'addio al celibato di un nostro amico che si chiama Enrico Mazzali, che per questa sera è il maiale della serata. Il vero maiale. Ma proprio nel vero senso della parola, Sì. Io lo sto dicendo perché sono la prova. È l'attrattivo della serata. Sì. E la cosa bella, ragazzi, che dovete sapere, che sta da quando è entrato qui dentro, con quel costume addosso, secondo me sta facendo la sauna. Vero? Abbastanza. Ma c'ha la ventola però, ragazzi. C'ha la ventola per tenere. Addosso. Non lo toglie da addosso perché è un irriducibile come... No, perché secondo me si sente a suo agio con quel vestito. Assolutamente. Può essere. Assolutamente Enrico sì. È un eroe. Un eroe. È un eroe perché dal primo minuto il celibato è partito da oggi pomeriggio, non ha voluto mai lasciarlo, è una cosa... Vogliamo salutare anche tutti gli amici da casa. La compagnia del porcello, è brutto da dire, però è così. È la così. Compagnia del porcello, siamo la compagnia del porcello alla fine. Cosa gli avete fatto fare oggi allo sposo? Oggi. Dai. Allora, oggi gli abbiamo fatto fare una giornata in un... Indimenticabile in un... Come anche il suo outfit indimenticabile. Esatto, che è partita con una grigliata che ci ha protratto per tutto il pomeriggio. Abbiamo giocato a mondialito con dei bambini danesi. Esatto, sì. Abbiamo fatto una bruttissima figura, tra l'altro. Una sfida internazionale. Esatto. No, è stata una giornata piacevole che ci ha intrattenuto fino alle 6 con gente di varie culture, varie etnie, dagli olandesi ai danesi, agli italiani, ai sammarinesi questa sera. Di cui non capiamo perché loro sono sempre in ferie e noi no. Esatto, questo è un piccolo dettaglio. È un piccolo dettaglio. La più bella sorpresa però è stata la Vale del convento, ragazzi. Assolutamente, che ci ha dato l'opportunità anche di parlare in questa radio. Com'è ragazzi? Bellissima giornata che stiamo passando. Ma guarda, è un'assoluta figata, anche perché poi noi, io e Mattia soprattutto, siamo abituati a parlare in una radio. Cosa fate voi di solito? Noi facciamo degli audio giornalieri a tutti, una comunità di amici, membri, componenti, eroi che ci seguono da casa, che siamo il gruppo Decisività al Cubo. E super decisività perché è passato, sì. E cosa raccontate a questi amici? Raccontiamo le nostre giornate, raccontiamo un po' che cosa succede. No, vi posso chiedere una cosa? Sì. Ma a loro interessa cosa fa? A loro interessa assolutamente, sì. E abbiamo assolutamente una domanda molto vale, abbiamo gli haters, tutti i giorni ci criticano per quello che facciamo, per qualcuno che critica c'è sempre. Assolutamente, sì. Ci deve stare. Sì. No, è fatto di questo. È fattuale, quando tu ti esponi a un pubblico per forza agli haters, e comunque è anche quello il bello della popolarità, se vogliamo dirlo, no? Fantastico. Cioè, in diretta, però io volevo fare un saluto. Si ascolta qua, qui fuori, un saluto al nostro membro componente eroe fondatore. Sì, l'altro nostro membro componente eroe fondatore, che è Marco Scaramagli, che stasera non c'è perché è impossibilitato. È al lavoro. È un super lavoratore. Esatto. Cosa e niente, però ti che ringraziamo. Cosa fa, che cosa fa questo? Lo puoi salutare, Marco. Buonasera Marco, è un piacere anche se non ti conosco. Un gran lavoratore, per questo non c'è stasera qui con noi. Esattamente. Voi state qui a divertirvi e lui poverino a lavorare. Esatto. Quello che guadagna nel gruppo, però ripartisce gli utili. Vabbè, lui guadagna e voi li spendete. Esattamente, sì, noi. Però non siete stupidi. No, non spendiamo, noi investiamo il budget. È stupido lui. Brava, investiamo il budget del gruppo, quindi. E niente, però questa è una gran figata, Vale. Tu che cosa ci puoi dire invece in merito rispetto a questa serata? Tu sei qua fissa, vero? Fissa, sempre. sempre, quando volete venite a trovarmi. Da dove venite voi? Ma noi veniamo quando tu vuoi. E questo è un problema, ragazzi. Questo potrebbe no, siamo un po' disparati. Io sono tra Ferrara e Bologna, lui è da Rovigo, Verona, lui è Verona Mantova, quindi è un casino. Mantova che zona? Mantova Ostia. Ok, un po' lontanuccio dalla mia zona. Vale. È un casino. Un casino. Stasera teniamo un casino. Stasera ci sto mare fuori comunque. Stasera ci sto mare fuori, voglio non ci sta niente da fare. Quando ci sta, ci sta. Io un po' dell'Edoardo, però. Forse la somiglianza con qualche personaggio. Un po' di Ciro, un po' di Edoardo, ci siamo. Vorremmo sapere anche cosa ne pensano i miei amici da casa, però. Ma adesso leggiamo gli sms se arrivano, ma non ci arrivano gli sms degli amici da casa. Quindi se ci arrivassero. Ecco, adesso ci arriva una chiamata, vediamo. Leggiamo la chat, sì, qui abbiamo. No. Allora ne è arrivato uno innanzitutto che dicono: ma Mattia, ma perché tu prima ti facevi chiamare Davide in console quando in realtà ti chiami Mattia? Ragazzi, qui ragazzi. È una bella domanda. Io voglio sapere la risposta. Qui ragazzi è vero, è stato un fake, è stato un fake. Si è dichiarato Davide, ma in realtà si chiama Mattia. E si è dichiarato Davide per farlo spudorato con una neosposa, ragazzi. Quindi. Mamma mia. Ma conoscete qualcuno da tra questa banda qui fuori che potete dire che avete conosciuto, diciamo che è il più matto San della serata? Esatto, abbiamo conosciuto le ragazze di San Marino, incredibile, sì. Tra l'altro Repubblica, incomprensibilmente, perché non capisco perché ancora concediamo a San Marino di essere una Repubblica. Perché non se ne va via? Dovremmo invaderla e conquistarla. Dobbiamo fare una rivolta. Però vabbè. Andiamo a fare la rivolta? Stasera a chiedere il perché hanno... chiederemo che noi non abbiamo. Quindi la accettiamo e accettiamo anche le sammarinesi. Con furore, assolutamente. Con estremo furore. Furore. Diceva Alessandro Greco, tra l'altro. Furore. Na. Possiamo chiudere. Va bene ragazzi, io vi lascio, buon proseguimento. È stato un piacere, ragazzi. Grazie. State ascoltando Risto Radio Convento, la web radio del convento di Leonato del Garda.